Sotto tiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Spesso nel sistema giudiziario italiano ai danni si aggiungono le beffe. Carlo Cosco, accusato dell'omicidio della compagna Lea Garofalo, godrà del patrocinio legale gratuito. Cosco è in carcere con l'accusa di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere. Il corpo della compagna, scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2009, madre della loro unica figlia Denise, sarebbe infatti stato sciolto nell'acido. In altre parole, a pagare le spese sarà lo Stato. Il patrocinio legale gratuito è stato concesso all'imputato in quanto all'apertura dell'istanza ha prodotto una documentazione che attesta che il suo reddito non supera i 10.628,16 euro all'anno. Dalle carte risulta che Carlo Cosco lavora come buttafuori e percepisce redditi esigui. Cosco può godere del patrocinio legale gratuito anche in virtù del fatto che è decaduta l'aggravante mafiosa. Questo significa che lui avrebbe pianificato l'omicidio della compagna per mettere fine alle liti intercorse tra i due e non a seguito delle rivelazioni che Lea Garofalo fece e che riguardavano i traffici illeciti di droga nei quali i Cosco sarebbero stati coinvolti. Dalle dichiarazioni della figlia Denise, avvenute a ottobre, si è però appreso che il padre per spostarsi utilizzava auto costose di grossa cilindrata come il Chrysler Voyager e l'Audi A6 e che alla figlia avrebbe promesso 200.000 euro. Alla luce di questi dati, sarà adesso la Guardia di Finanza a dover svolgere tutti gli accertamenti del caso. Per carità, la legge è stata rispettata, ma visto che non è la prima volta che questo accade, sarebbe forse il caso di rivedere le norme che disciplinano l'accesso al gratuito patrocinio legale. Non ho e non abbiamo soluzioni in tasca, ma questi casi devono servire proprio a ripensare regole, forse superate dagli eventi. Buona vita e a domani.